Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Devo dire, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che sarà particolarmente interessante per una volta sentire una persona che è abituata ad ascoltare tanto gli altri, a raccontarsi qui a Storielle insieme a voi. Sentiamo un po' che cosa ha da raccontarci della sua vita e anche del suo sguardo sul mondo e sul comportamento umano. Però prima di tutto, proprio per raccontarci di sé, cominciamo con questi tre indizi, tanto per fare un identikit così di massima, sempre molto sintetico, molto difficile, però ci proviamo, cara ospite. Ostinata, e questo nella vita devo dire che insomma aiuta, bisogna avere spalle grosse. Poi ottimista, inguaribilmente ottimista. Anche questo è meraviglioso, ma non è così diffuso, almeno nel modo consapevole, intelligente. È anche difficile al giorno d'oggi essere ottimisti, ma io pervicacemente lo resto. Poi ci spiegherai qual è la ricetta, perché è importante saperlo, proprio con tutto quello che è un mondo sempre più complesso, più conflittuale, più poi la crisi, no? Quindi frangenti difficili. Ci dirai come fai a essere inguaribilmente ottimista, che mi piace. E poi per chiudere un altro aggettivo? L'altro aggettivo è versatile, adattabile. Questo ha a che fare con l'ottimismo, cioè c'è sempre una maniera per aggiustarsi e per aggiustare. Senti Gianna, poi dopo facciamo un colloquio proprio io e te dietro le quinte, mi insegni un po' di cose, va bene? Perché bisogna dire che questo di Gianna Schelotto, che naturalmente conoscete, apprezzatissima psicoterapeuta, io direi che è come il ritratto della, diciamo, di un prototipo particolarmente adatto a vivere nel mondo di oggi e a sopravvivere con un certo beneficio. Che dici, Gianna? Sì, certo, come dire, avere dentro di sé le strutture che ti consentano di affrontare le difficoltà e di vedere sempre un po' al di là, cioè credendo sempre un po' in se stessi, rivedendo a tutto ciò che si è superato nella vita. Io ho superato cose anche molto difficili, sì, nella mia vita, e se sono riuscita a sopravvivere vuol dire che sono forte. Sei ben equipaggiata, diciamo che hai gli strumenti, sì. Gianna Schelotto, e se no non potrebbe neanche fare il suo mestiere probabilmente, no? Gianna, che dicevamo, sì, certo, appunto, notissima, certo, psicoterapeuta, studiosa del comportamento umano. Tu sei nata in provincia di Potenza, a Rio Nero in Vulture, però praticamente sei genovese d'adozione, perché sei nata molto, sì, presto a vivere a Genova. Sono nata a Rio Nero in Vulture, in Basilicata, un paesino, Vulture, sì, un paese molto bello, che mi è rimasto nel cuore naturalmente. Forse non è così bello come paese, però... Ma il tuo? Naturalmente ci sono tutti i ricordi dell'infanzia, dell'adolescenza e quindi di un tempo. È bello il tempo che ci ho vissuto in quel posto. Se dovessi raccontare qualche episodio della tua infanzia, della tua adolescenza, che ti fanno appunto amare questo luogo, cosa racconteresti? Beh, è legato più a persone che a episodi. Cioè è legata alla forte personalità di mia nonna, la mia nonna Gelsomina, che era una donna fortissima, che aveva superato anche lei difficoltà incredibili, era rimasta vedova molto giovane con tanti figli. La cosa più tenera che ricordo di mia nonna era il fatto che lei aveva una passione per il pollaio, per le galline e per i pulcini, e quando nascevano dei pulcini, come si direbbe oggi, una nascita precoce, prematuri, lei aveva una sorta di tasca sul seno, una tasca in una camicia, e metteva questi pulcini sul petto e li teneva al caldo, così poi questi pulcini, come dire, si robustivano, ed era una specie di incubatrice. L'incubatrice, come si fa per i bambini, insomma. Quindi aveva esattamente questa cosa, quando la ricordo mi fa una grande tenerezza. E infatti è bellissima, non l'avevo mai sentita una cosa del genere. Nemmeno io l'ho sentita dopo da altre persone, ma lei aveva questo suo metodo. Quindi questo è un aspetto, una persona che ha evidentemente molto condizionato in senso positivo la tua vita, no? Che ti ha sì, lasciato un segno. L'altra cosa della mia infanzia che mi ha condizionato è che la mia nonna Gelsomina aveva un albergo, era l'unico albergo del paese, e quindi fin da piccola non ero chiusa, come dire, nell'intimità della famiglia, ma avevo a che fare con persone sempre nuove, diverse. E questo credo che, stiamo parlando degli anni 50 in un piccolissimo paese del sud, e quindi in un mondo chiuso, in un mondo isolato, e invece il vivere in questo albergo, il vedere arrivare sempre gente nuova e non aver quindi paura dell'estraneo, anzi considerare l'estraneo una fonte di novità, di ricchezza, di progresso, credo che anche questo abbia influenzato la mia voglia di ascoltare gli altri, di essere sempre curiosa rispetto agli altri. Quindi questa esperienza ha gettato un po' i semi della tua professione, della scelta che poi hai fatto. o è stata, ci sono stati altri elementi che ti hanno fatto prendere questa strada? Ci sono stati naturalmente altri elementi. Io da ragazzina pensavo, il mio sogno era di fare la giornalista, e poi in realtà ho finito col fare tutte e due le cose. E ho fatto l'insegnante per molti anni, sono stata insegnante nelle scuole elementari, e ai miei tempi c'erano le cosiddette classi differenziali. Io mi ero fatta la fama di essere una specie di incantatrice di serpenti. I bambini più disadattati, quelli che allora si chiamavano caratteriali, riuscivo a placarli, a tranquillizzarli, e quindi insegnavo in queste classi differenziali. Però già allora, come dire, mi confrontavo con l'isolamento di questi bambini, cioè le classi differenziali erano nate in teoria per aiutare questi bambini a inserirsi, in realtà erano un modo per isolarli, per allontanarli dai cosiddetti bambini normali. Questa cosa mi indispettiva, e allora mi è venuta voglia di impadronirmi degli strumenti e degli psicologi per cercare di usarli in maniera diversa. Ed è stato allora che ho maturato la voglia di fare la psicologa, per capire e anche per vivere la professione con un taglio diverso. Quindi da lì, insomma, hai capito che questa poteva essere la tua vocazione, la tua professione, hai una lunghissima esperienza. Poi ricordo, tra una cosa e l'altra, che collabori con diversi quotidiani e riviste, in testa il Corriere della Sera, no? Poi partecipi a trasmissioni televisive e radiofoniche. Tu hai anche dato qualcosa alla politica negli anni 90, se non sbaglio, ti sei occupata di politica. Sì, io sono stata parlamentare per 9 anni. Non poco, insomma, quindi un decennio. Un pezzo importante della mia vita. Sono stata 5 anni alla Camera e 4 anni e mezzo al Senato. Quindi lì, non solo nell'albergo della tua infanzia, esatto, avrai avuto modo di vedere vari tipi umani, immagino poi quanto anche nella politica. È stata un'esperienza di grande interesse. Voglio dire, essere lì dove si decide. Certo, io non ero un peones, quindi non ero di quelli che decidevano, però l'effetto che ti fa di essere nei palazzi, adesso sono molto screditati questi palazzi, ma al tempo in cui c'ero io non era così. Era dall'83 al 92, quindi diciamo ci si avviava alla fine della Seconda Repubblica. C'era già aria di crisi, però insomma il mio compagno di banco era Berlinguer. Ho conosciuto personalità straordinarie come Baietta, c'erano personalità di grande importanza. Militavi nel PDS, era allora? E allora ero indipendente nelle liste di sinistra, ed è stata un'esperienza bella anche per questo, perché io venivo dalla cosiddetto mondo civile, cioè non avevo mai fatto politica, e l'idea che una persona facendo altro potesse portare un proprio contributo mi sembrò allora e mi sembra tuttora una cosa di grande interesse. Naturalmente ero andata con grandi illusioni e lì ho dovuto ridimensionarle. Però dal punto di vista dell'arricchimento, dei rapporti, ma anche di un certo modo di vedere il mondo, credo che sia stato importante. Se tu dovessi dire una personalità in particolare di queste che hai conosciuto? Direi Enrico Berlinguer. Mi colpiva la sua, voglio dire, il suo essere in mezzo agli altri lui era il capo del partito, era grande leader, era uno dei personaggi più importanti di quel momento, eppure mi colpiva la sua modestia, il suo farsi piccolo, il suo non voler mai essere in vista, la sua umiltà e la sua grandezza, naturalmente. Poi di tutt'altro genere ero affascinata dall'irruenza di Baietta, il quale a 70 e passa anni era ancora capace di saltare in piedi su un banco e di protestare agitando le braccia. La passione era, politica, insomma. Sì, mi affascinava la passione che lui metteva nelle cose, la sua ironia, era un personaggio straordinario. Storielle. Storiacce. Sempre Roberta Giordano con voi, ascoltatrici e ascoltatori, e sempre con noi a raccontarsi in una veste un po' inedita, diciamo, perché visto che è abituata lei in genere a sentirsi raccontare dalle persone, Gianna Schelotto, notissima psicoterapeuta, ha scritto una trentina di libri, poi ne parleremo, pubblicati in particolare da Mondadori, e ci stava raccontando delle sue esperienze dell'infanzia, dell'adolescenza e poi anche di questo periodo, un decennio, quasi 9 anni, in politica, in Parlamento, quindi essere riuscita con il suo sguardo particolare, anche appunto quello di una psicologa, di una psicoterapeuta, anche a trovarsi vicino a delle personalità che hanno fatto la storia del nostro paese, citava per esempio Enrico Berlinguer. Ma è mai successo, Gianna, che qualcuno, approfittando, un po' come succede a volte, no, della tua professione, si avvicinasse e si confidasse un po'? Sì, molto spesso. Molto spesso mi accadeva che, soprattutto nelle lunghissime sedute, quando si aspettava di votare, quindi passavano ore e ore sui divani in transatlantico, allora c'era sempre qualcuno che mi si avvicinava, o per problemi personali, per problemi di rapporti con i figli. Questo era diventata una consuetudine ormai. Tu l'hai preso come una cosa piacevole questa, o alla fine ti è un po' no stancato? Perché no, piacevole nel senso che comunque era un riconoscimento, un attestato di stima, e poi perché appunto il fatto di essere lì mi aiutava a distinguermi. Ero lì anche per il mestiere che avevo fatto, per il mestiere che continuavo a fare, quindi era una forma di riconoscimento. Certo, ma invece come donna la tua esperienza in Parlamento com'è stata? Dato che, vabbè, noi stiamo parlando, dicevamo, degli anni a cavallo tra gli anni 80 e i primi anni 90, però la rappresentanza femminile in politica in Italia, più o meno, i livelli sono sempre molto bassi, no? Quindi non si è cambiato molto. È sempre bassa, però in quegli anni sono passate cose molto importanti. È passata la legge contro la violenza sessuale, la legge sull'ordine degli psicologi, era, come dire, intensissima la partecipazione, le discussioni con i colleghi maschi. Non so se è ancora adesso così, penso di sì, però era molto forte questo confronto dei temi femminili e questo tentativo di discutere con gli uomini, di far capire agli uomini qual era la differenza e quanto fosse importante sottolineare queste differenze. Ti sono sempre stati a cuore i temi femminili legati alle donne. Ti puoi definire femminista o una parolaccia? No, assolutamente. Penso che definirsi femminista sia un onore, nel sono senso d'accordo. Che un po' credo che sia anche un dato anagrafico. Cioè, io sono passata dall'essere donna negli anni 50, quando c'erano ancora tutta una serie di schemi, di dipendenze, quando c'era la mancanza di autonomia, di libertà, una donna, certo, che facesse delle professioni autonome era ancora un mercerale. Io ho attraversato questo tempo e ho visto proprio su di me l'incredibile cambiamento che le donne hanno portato nella vita, non solo delle donne, cioè i cambiamenti, le rivendicazioni femminili non hanno giovato solo alle donne, hanno giovato a cambiare il costume in questo paese. Al progresso in generale, no? Esattamente. Gianna, ritorniamo un po' sui tuoi fatti, diciamo così, più privati, più legati alla tua vita intima. Tu hai detto che la nonna Gelsomina è stata una donna che ti ha insegnato delle cose belle, ti ha segnato, ed è una donna che ha anche passato delle cose molto difficili. Anche tu ne hai passate di terribili, in particolare una che dici tranquillamente perché ne hai anche parlato in un libro, più di un libro, no? Sì, certo, certo. Ho subito una disgrazia terribile, cioè la morte della mia bambina, la mia bimba di 5 anni che è morta annegata in una piscina. E quello è stato un passaggio, come dire, è un po' come prima di Cristo e dopo Cristo, cioè la vita viene divisa in due parti, certo. C'è la parte prima di questo evento e c'è la parte dopo. E il dolore credo più grande che possa provare una persona, in particolare sia di figli in assoluto nella vita. Ecco, diventa poi dentro di te una risorsa, cioè aver superato una prova come questa diventa una risorsa invincibile, nel senso che ti aiuta, davvero ti dà un filtro, una lente, per cui la realtà passa attraverso questa lente e tutto si ridimensiona, tutto diventa meno importante, tutto diventa più accessibile. Hai più il senso delle priorità a questo punto. Esattamente, e quindi diciamo un lutto così, una cosa così straziante, una cosa che rimane viva per sempre, certo, dentro di te, però diventa, come dire, una risorsa segreta, una forza che ti aiuta nei momenti più difficili. Ma secondo te in questo ti ha aiutata il fatto di fare il tuo mestiere di psicoterapeuta, oppure tu l'hai fatto il mestiere di psicoterapeuta, dicevamo, perché già avevi un certo tipo di sensibilità e quindi comunque avresti superato questo tipo di dolore? No, quando io non facevo ancora, ero alle prime armi, penso di no. Penso invece che abbia molto influenzato il mio mestiere di psicoterapeuta, quindi che mi abbia dato quel senso di distanza che è così necessario al mio mestiere, quel senso di guardare le cose appunto con una distanza, con un filtro che ti consenta di dare alle cose il giusto valore, di non lasciarti travolgere dall'ansia. Tu hai un'altra figlia, ha seguito le tue orme o fa tutt'altro? No, mia figlia lavora in un'agenzia di comunicazione, fa tutto un altro mestiere, un mestiere un po' affine, perché naturalmente la comunicazione è affine ai rapporti psicologici con la gente, però ha scelto una sua strada e una sua identità precisa. E quando una mamma fa il tuo mestiere riesce a capire, a far crescere meglio un figlio o una figlia, oppure poi il mestiere di genitore è difficilissimo comunque, insomma, in ogni caso? Io penso che mia figlia sia cresciuta bene, nel senso che sono contenta di lei e lei penso che sia contenta di sé. Penso però che anche per lei abbia avuto un peso la morte della sorellina. È difficile dire se è stato il mio mestiere o se sono state le prove che la vita ci ha chiesto. Ritorniamo sui tanti libri, dicevamo, che hai scritto, no? Quasi una trentina. Ne cito solo alcuni perché sennò sarebbe troppo lungo l'elenco, ma per esempio Una fame da morire, quindi già ti sei occupata parecchi anni fa dei problemi legati all'alimentazione, della bulimia, dell'anoressia. Poi... Il mio libro sulla bulimia e sull'anoressia è stato il primo libro, insieme a quello di Fabiola De Clercq, la prima volta che si parlava pubblicamente di anoressia e bulimia. Uno psicologo, come dire, percepisce come in anticipo, quando nella società percepisce, non per meriti suoi, ma perché le persone vengono a portarti problemi che in quel momento il costume e la società stanno aggregando. È un po' un osservatorio privilegiato, no? Diciamo, quello della tua posizione. È un terminale, diciamo, del disagio generale, e quindi questo mi ha consentito più volte di anticipare i tempi, di anticipare i malesseri che sono poi simbolici di un certo modo di vivere. Certo. Poi perché, diciamo, le bugie, equivoci e sentimenti, che è una dimensione che ci appartiene a tutti purtroppo costantemente, distacchi e altri addii, uomini altrove, e poi l'ultimo mi sembra è Io tra di voi, no? Le amanti e le loro illusioni, cioè il difficile ruolo delicato delle donne che si innamorano di uomini già impegnati sentimentalmente. Sì, anche questo delle amanti, ho cercato di dare una lettura un po' più approfondita, perché la cosa che mi colpisce in queste donne è che sembra che abbiano una sorta di vocazione al martirio, e cioè loro sanno in partenza che queste storie sono senza futuro, ma è come se le cercassero di proposito, come se loro non volessero darsi un futuro e quindi si legano a storie senza speranza. Se tu dovessi commentare, giudicare un fenomeno sociale che sta man mano prendendo grandi dimensioni come Facebook, no? Questo social network, come si chiama, questo spazio enorme su internet dove tutti si iscrivono e si scambiano considerazioni, ma soprattutto parlano di se stessi, mettono le proprie foto, hanno bisogno di contattare gli altri e di far sapere che cosa fanno istante per istante, alcuni sono proprio un po' maniaci, che cosa ne pensi? Ma io ho l'impressione che oggi, nonostante tutte queste cose, ci sia fortissimo un senso di solitudine. È vero. E quindi questo bisogno di partecipare, di esserci, di mostrarsi anche un po' diversi da come si è nella realtà, sia un antidoto alla solitudine e una forma di narcisismo. Cioè, Narciso non è morto di vanità, è morto di solitudine, perché guardando il suo riflesso nell'acqua aveva il terrore che se smetteva di guardarsi non esisteva più, non c'era più la prova della sua esistenza. E quindi tutte queste forme mi sembrano una forma di narcisismo che servono per alleggerire il peso della propria solitudine. Effettivamente questa cosa si nota in generale, e sento anche questa ricerca anche spasmodica di amore che non si trova. Io dico soprattutto da parte delle donne, ma magari tu mi smentirai. Ed è secondo te un qualcosa che hai cambiato antropologicamente, oppure perché le donne si accontentano meno di una volta, sono più libere, quindi significa anche avere più possibilità di scelta e di responsabilità, di non accontentarsi di quello che si trova, ma di cercare quel qualcosa di più, e alla fine poi molte non lo trovano, molti non lo trovano. Ma vedi, il mio prossimo libro sarà proprio su questo tema, sulla solitudine delle donne e sul non ne loro sapevo bisogno... nulla, questo lo so, e sul loro bisogno di cercare di aggrapparsi ad un uomo, non importa come, che anche se è sposato, anche se non è adatto a loro, anche se le tradisce, anche se le inganna, però questo attaccamento ad una persona altra, e perché appunto l'angoscia della solitudine. Ma poi sulla carta le donne non hanno mai avuto come oggi tante opportunità, tante possibilità di conoscenze, una così vasta molteplicità di occasioni, e proprio questo sembra rendere ancora più difficile accettare la solitudine. Cioè, più diventano apparentemente grandi le occasioni, più ci si sente frustrati dal fatto di non fortunati per il fatto di non riuscire a coglierle. Una tua grande passione, a parte il tuo mestiere, Gianna Scalotto, qual è? La musica, la lettura, e poi come dire, un certo tipo, questo si rifà alla mia infanzia, un certo tipo di cucina. Mi piace preparare piatti legati alla tradizione del mio paese e soprattutto fare il pane, mi piace fare il pane. Ah, c'è uno scrotto che fa il pane. C'è la cosa che mi commuove di quando si fa il pane, è di mettere lì un pezzo di pasta e poi dopo un po' vederlo si trasforma e cresce. C'è l'idea della crescita, è una specie di miracolo. Quindi della vita. E adesso per chiudere, questo che senti qua non è pane perché è metallico, ma è la lampada di Aladino, Gianna Schelotto. Tu dicevi che insomma comunque mi sembri soddisfatta della tua vita, ne hai passate tante, ma sei riuscita a trovare la chiave giusta per continuare a vivere con pienezza e con coraggio e con ottimismo, questo ottimismo inguaribile che dicevi all'inizio. Se tu dovessi chiedere ancora una cosa, un desiderio che hai? Guarda, non, devo dire, la vita, a parte le vicende terribili che ho vissuto, ma la vita com'è stata generosa, nel senso che mi ha dato molto più di quanto non pensassi di meritare. E quindi non vorrei chiedere soltanto una vecchiaia serena, senza acciacchi, senza malattie terribili, e la salute per le persone che mi stanno vicino. Forse è un desiderio tipico, come dire, di una certa età, ma non ho aspettative particolari. Quello che ho mi basta, vorrei soltanto che le persone che mi sono care stessero bene. Beh, una persona che nonostante le dure prove che ha affrontato, in particolare una dolorosissima, e riesce a dire che la vita è stata comunque generosa con lei, insomma, deve avere una grande anima. Grazie Gianna Schelotto. Grazie a te. Ciao Gianna.